Ingrid. Sarebbero stati centrati in pieno e sarebbero morti. E lei se ne sarebbe andata. Avrebbe svoltato a destra verso il ponte che portava a Liljeholmen e via. Sarebbe sembrata opera di un pirata della strada. Un ubriacone di passaggio che aveva messo fine alla vita del direttore dell'Afton Pressen e di un astro nascente della televisione. Mentre la macchina sfrecciava verso Tommy e Giulia, Ingrid si vedeva già in chiesa, in abiti e velo nero, intenta a ricevere le condoglianze. Il tachimetro segnava 73 chilometri all'ora e i due non erano a più di 20 metri. Tommy alzò lo sguardo e si immobilizzò. La bocca di Giulia mimò un urlo. In quell'istante, Ingrid si rese conto del suo errore. Il GPS. Quanti servizi aveva sentito su delitti risolti dalla tecnologia? Anche se avesse ripulito accuratamente la macchina e avesse detto alla polizia di non essersi mossa da casa, di sicuro le indagini sarebbero state approfondite. Soprattutto, quando fosse saltato fuori che Tommy era con l'amante. Sarebbe finita in prigione. All'ultimo istante sterzò di qualche grado a destra, la macchina slittò e mancò Tommy di pochi centimetri. Ingrid riprese il controllo dell'auto e accelerò. Nello specchietto vide il marito e Giulia che la guardavano allontanarsi. Adesso Tommy sapeva che lei sapeva. Come avrebbe reagito? Il semaforo era rosso, ma non c'erano altre macchine in vista. Ingrid svoltò a destra verso il ponte di Liljeholmsborn. Si domandò se Tommy l'avrebbe chiamata o se avrebbe aspettato di vederla di persona. Forse si sarebbe fermato a dormire da Giulia per calmarsi, per pianificare le prossime mosse. E lei cosa avrebbe fatto? Chiedere il divorzio e ricominciare a lavorare come giornalista? Con la digitalizzazione non era più molto attraente sul mercato del lavoro. Non aveva nemmeno Twitter. Ma in un modo o nell'altro sarebbe stata costretta a trovarsi un lavoro. L'accordo prematrimoniale era limpido in proposito. In caso di divorzio non avrebbe visto un ore dei soldi di Tommy. E lui avrebbe messo su una nuova famiglia con Giulia? Era giovane, sicuramente voleva dei figli. Ingrid superò un camion senza azionare la freccia. No, il divorzio non era una strada percorribile. Per quanto girasse e rigirasse la faccenda, la soluzione era una sola. Suo marito doveva morire. Per quello che le aveva fatto e per evitare a lei e Lovisa la vergogna di dover tirare avanti in un appartamento affittato in qualche sobborgo.